Luci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Un saluto da Anna Marino. Volete cambiare? Ben Casnocha e Reid Hoffman, cofondatori di LinkedIn, nel loro libro Startup of You, dicono a tutti di considerare se stessi come una startup sempre in movimento. In Italia si intitola Teniamoci in contatto, la vita come impresa, e c'è chi questa scommessa può e vuole farla tutti i giorni, non solo gli imprenditori, ma ognuno di noi. Oggi parliamo di un invito a prendere parte al cambiamento lanciato da ING Direct, la prima banca online in Italia, in collaborazione con H-Farm, Venture Incubator, che opera a livello internazionale a supporto appunto delle startup che hanno pensato insieme un premio accolto da una platea di spiriti innovativi. Dopo quasi 4 mesi di selezioni, oltre 400 progetti candidati e 3 storm in pizza, la giuria di esperti ha selezionato le 3 startup finaliste legate al mondo digitale. Ne parleremo oggi. Solo una di loro però riceverà il premio di 100.000 euro. Il vincitore sarà nominato giovedì 24 gennaio presso la sede del Sole 24 Ore e l'evento sarà visibile in streaming dal sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, e sulla pagina di Facebook di ING Direct. Ed ecco le imprese. Condomani è un social network per migliorare la vita condominiale. Da Cosenza, Antonio Bevacqua. Erano i primi giorni di giugno, tornavo a casa alla sera, erano circa le 22, e c'era un problema al cancello del mio condominio. Non riuscivo a entrare fondamentalmente. Sì, dovevo dovuto chiamare l'amministratore di condominio, però qual era il problema? Non hai il numero di telefono, fondamentalmente non ti va di chiamare magari a quell'ora, o tanto pensi che lo farà qualcun altro. E il problema in effetti poi è rimasto per un po' di giorni. Il giorno dopo, tornando in ufficio, ho ragionato con i soci della mia startup, ho detto: beh, che ne dite di fare il social network per il condominio? Ecco, il social network per il condominio è nato da una prima difficoltà. Ha l'obiettivo di risolverne tante. Quali? In prima istanza è la comunicazione fra i vicini di casa. Dall'altro lato è tutta la questione della trasparenza, cioè quanto spende l'amministratore, come fai a contattare l'amministratore, come fai a gestire le spese del condominio. Quindi si unisce al social tutta la contabilità del condominio e tutte quelle spese che magari uno dice: beh, l'amministratore truffa, mentre magari non è vero, basta avere un attimo di trasparenza e su un social riesce ad averla. Come fanno i condomini a mettersi in contatto l'uno con l'altro? Come funziona questo social network condominiale? Anzitutto bisogna registrarsi, basta che si va su www.condomani.it e in meno di 30 secondi quando ci si registra, anche con un pulsante via Facebook, si crea il condominio se già non esiste e si iniziano a invitare quei vicini di casa di cui magari abbiamo l'email, si invita anche l'amministratore. A quel punto Condomani pensa a fare tutto il resto, perché diciamo gli altri vicini inviteranno gli altri vicini e così via, e in pochi giorni tutti quanti saranno iscritti su Condomani. A quel punto anche l'amministratore si adatterà e gestirà la contabilità anche su Condomani. Per quanto riguarda invece il modello di business, qual è? Com'è che avete dei ritorni? I ritorni arrivano dalla vendita delle licenze agli amministratori di condominio. Gli amministratori di condominio pagano da 49 euro a 499 euro per la licenza di Condomani, e pensando tutto quello che si riesce a risolvere grazie a ciò è veramente poco. Un altro ritorno poi lo abbiamo dai professionisti, cioè tutti quei professionisti che vogliono cercare un nuovo lavoro, un nuovo cliente, sono comprare uno spazio pubblicitario che va sempre dai 50 euro ai 500 euro su Condomani, e quindi diciamo possono avere nuovi lavori da poter gestire. Quindi non so, alla fine magari un condomino ha un problema in casa, magari ne so, a Ferragosto, scrive su Condomani e dei professionisti registrati, certificati con l'amministratore, riceveranno l'offerta e potranno quindi risolvere il problema. Ma vogliamo capire, visto che voi aiutate, chi ha aiutato voi? C'è una bella lista di grazie da dover dire. E in quei giorni, quando ci è venuto l'idea, da poco c'è stata una competizione qui in Calabria, organizzata dall'Università della Calabria, e lì sono venute le persone veramente importanti di una società che si chiama D-Pixel, sono dei fondi, e ci hanno aiutato a mandare avanti l'idea. Comunque c'è da dire tante volte grazie all'Università della Calabria, che ci ha supportato tramite il centro di competenza ICT Sud a mandare avanti la nostra idea inizialmente. Da lì poi è stato un susseguirsi di persone che onestamente ci hanno fatto crescere l'idea. Ricordo Innovation Lab di Augusto Coppola, tante altre persone del mondo delle startup che si sono innamorati della nostra idea e ci hanno continuato a seguire per migliorarla. Ad esempio uno degli ultimi è Giovanni De Caro di un fondo che ci sta dando tante idee per poter migliorare la nostra idea. E infine, in effetti, il concorso che tra poco ci porterà a Milano per poter vincere forse un premio, e questi sono quelli di ING Direct. Perché avete deciso di partecipare al premio? Fondamentalmente per vincere, a parte la battuta, no, perché comunque per farci conoscere ancora di più. Quando si partecipa a premi come questo tipo la risonanza è veramente elevata, dopodiché se si vince ancora meglio, però nel frattempo gli ascoltatori ci stanno ascoltando grazie alla partecipazione a questo premio. E via col secondo. Progetto Wedding è un e-commerce che vende servizi di consulenza e oggettistica legati agli eventi più importanti nella vita di una coppia: il matrimonio, la nascita, il battesimo, la cresima. All'interno del sito, bomboniere, abiti da sposa, confetti e così via, a prezzi molto vantaggiosi e in quantità anche a prezzi da grossista. Da Siracusa, Salvatore Cobuzio. L'idea è nata attraverso un'esperienza personale, nel senso che nel momento in cui io e mia moglie ci siamo sposati, ci siamo messi un po' alla ricerca di qualche oggetto un po' strano, prodotti personalizzati, bomboniere un po' più originali rispetto a quelli tradizionali, e ci siamo resi conto, insomma, che il negozio sotto casa magari non li aveva. Quindi poi abbiamo fatto un po' un giro sul web e abbiamo visto che in Italia mancava chi potesse vendere questi servizi, infatti poi alla fine li abbiamo comprati all'estero. Per cui subito dopo il viaggio di nozze abbiamo fatto subito una ricerca di mercato, abbiamo approfondito un po' il progetto e abbiamo visto che effettivamente c'era un mercato, una domanda interessante a cui rispondere. Ecco, Progetto Wedding è diventato quindi una startup di famiglia? Esatto. Cioè, mia moglie, ovviamente siamo tutti del settore, nel senso, mia moglie si occupa da anni, si è sempre occupata di contabilità, tutta la parte commerciale, io invece occupandomi di web marketing principalmente, per cui eravamo abbastanza avvantaggiati da questo punto di vista. E poi abbiamo inserito una terza figura che era appunto un'altra ragazza esperta di marketing, sempre web, e abbiamo inserito nel team anche lei. Per arrivare poi, diciamo, a realizzare l'idea, chi vi ha aiutato? Capitali, soldi, aiuti, incubatori, business angel? In realtà abbiamo fatto tutto da soli, con risorse proprie. Comunque non è come un negozio fisico, per cui bisogna dei grossi investimenti, giusto un sito internet, un paio di prodotti campione e qualche attività web, per cui i primi fondi li abbiamo messi noi tre. Poi a distanza di qualche mese abbiamo visto, insomma, che ci venivano a contattare diversi angel, incubatori, eccetera, eccetera. Abbiamo conosciuto dopo il mondo che sta dietro alla startup, cioè non sapevamo neanche di essere una startup, e quindi abbiamo partecipato a qualche evento. Ecco, il tessuto, diciamo, sociale, il fatto di essere, voi siete a Siracusa in Sicilia, avete trovato, diciamo, degli interlocutori che capissero il vostro lavoro, com'è stato appunto il vostro percorso? È stato drammatico. Qui al sud è un po' più difficile, anche il nostro consulente stesso, insomma, far capire cosa fosse un e-commerce ci abbiamo impiegato un po', per cui anche l'apertura di una partita IVA, la descrizione della Camera di Commercio, insomma, è stata abbastanza dura far comprendere cosa fosse e partire. Però, diciamo, adesso siamo ancora al sud e non abbiamo altri problemi, nel senso. Ecco, non vi siete trasferiti, avete messo in piedi un'azienda di famiglia, insomma, conciliare vita e lavoro è stato molto importante per voi. Come è arrivata l'idea di partecipare anche dei premi? Noi la prima competizione alla quale abbiamo partecipato è stata Wind Business Factor, che tramite un giro di amicizia, insomma, ci hanno chiesto di partecipare, ma abbiamo partecipato senza conoscere neanche cosa fosse. Subito dopo abbiamo partecipato appunto a questo qua di Ingidirect, prendi parte al cambiamento, e anche lì abbiamo avuto l'occasione già di conoscere altri incubatori importanti, da H-Farm, oppure Business Angel, anche altrettanto importanti, che insomma già qualche dritta ce l'hanno data su come migliorare. E via col terzo. Ticli è la nuova soluzione per organizzare, esplorare e trovare tutte le informazioni. Analizza qualunque archivio e finalmente i dati diventano accessibili velocemente. Da Torino, il fondatore Lorenzo Verna. La primissima intuizione nasce a valle della tesi di ricerca in informatica con cui io mi sono poi laureato. Dopodiché è passato del tempo. Durante questo tempo abbiamo lavorato alla una prototipizzazione del nostro algoritmo, che è alla base della tecnologia. Su questo poi l'analisi del mercato ci ha fatto dire: caspita, questo può essere il momento buono per cui questa prima intuizione venga effettivamente applicata al mercato e quindi possa portare i benefici a tutti. Chi invece è stata la vostra guida che vi ha aiutato? Perché è importante capire chi vi ha dato la possibilità di fare la svolta imprenditoriale. Dunque, io arrivo già da una breve ma significativa esperienza imprenditoriale, quindi qualche strumento per muovermi lo avevo acquisito con esperienze precedenti. Dopodiché abbiamo trovato la fortuna qua a Torino di avere comunque anche un interlocutore come Topix, che ci ha fornito le infrastrutture hardware per poter ospitare i nostri servizi e continuare i nostri sviluppi software. Quindi diciamo un po' questo mix è stato quello che ci ha aiutato e ci ha supportato. Naturalmente gli amici che si sono voluti unire alla nostra avventura imprenditoriale, dedicando tempo, dedicando le competenze, le risorse, è determinante anche questi. L'università, gli incubatori, i business angel, le istituzioni, i premi come quello di Angie Direct. Certo, tutto questo sistema che si è creato in Italia, che è evidente che è venuto a formarsi, questo ecosistema importantissimo, quindi conoscendo questo mondo abbiamo contattato H-Farm, con i quali poi abbiamo proseguito con il concorso di NG. Questo sicuramente ci ha aiutato sia per crescere e confrontarci ancora con gli esperti e con consigli, suggerimenti, valutazioni esterne che hanno aiutato ancora noi a migliorare la nostra visione imprenditoriale e di prodotto. Per quanto riguarda invece capitale, soldi e modello di business, da che cosa guadagnate? Capitale privato dei soci fondatori. Quindi questo ci ha consentito di fare degli sviluppi software, chiamiamole dietro le quinte, un po' a modo di laboratorio. Su questo il nostro modello di business è piuttosto semplice, perché noi in realtà vendiamo tecnologia, quindi noi diamo in licenza d'uso le servizi che il nostro software riesce a esporre ai nostri clienti. Ecco, chi sono i vostri clienti? Perché è molto particolare capire a chi vi rivolgete. In realtà noi andiamo a risolvere un problema che praticamente a ciascuno di noi, sia che sia un individuo, che sia un'azienda, che sia un'organizzazione pubblica o privata, nel senso che rendere i dati accessibili, quindi fare nascere nuovo valore dagli archivi dei dati che ciascuna azienda ha, e ha bisogno di fare in modo che queste informazioni siano rese accessibili velocemente, sia ad uso interno per business, sia a uso di visibilità e fornire un servizio ai propri utenti finali. E ora cambiate la vostra vita. Questa è la storia di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccola Impresa è su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa e il blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.